complesso tipico che sta suonando in piazza. Oh che bellezza za, oh che bellezza za. E caratteristico poi c'è quella ragazza che soffia come un mantice a gran velocità. Colibè, ipapò, colibè, guarda basso, colibè, colibè, colibè. Evviva re dei Gonda, quando suona nella banda tondo e pirlinfe, così bemolle classico, e bella e rubiconda, re dei Gonda, re dei Gonda, quando fa col piffero coi pirlin pirlinfe, la gente dice caspita, come fa, come fa, come fa, suonarla da memobile con tanta abilità. Evviva re dei Gonda, quando suona nella banda, nella banda d'un dei pirlimpe, dei pirlim, pirlimpe. Parte già la banda tra la gente in esultanza, torna in brianza, za, torna in brianza, za. Mentre re dei Gonda dà il segnale di partenza, i pirlimpe attaccano la bella di Gogì. Con i me, dai quei droghi, con i me, dai le fine, con i me, con i me. Evviva re de Gonda, quando suona nella banda d'onde firlimpe, così bemolle classico, e bella e rubiconda, re de Gonda, re de Gonda, quando fa col piffero, coi firlim, firlimpe, la gente dice caspita, come va, come va, come va, suonare la donna nobile con tanta abilità. Evviva re de Gonda, quando suona nella banda d'onde firlimpe, bravi che campion, re de Gonda il maestro, è una banda che usa lui.